peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi ascolteremo due giovani musiciste, due donne, due nuovi talenti, diciamo, un po' la ricerca di nuovi personaggi anche da presentare a Salpinaz come novità, e anche mantenendo quello che può essere un'evoluzione, la ricerca di un'evoluzione del linguaggio jazzistico con quelli che sono anche le nuove tendenze. E un po' naturalmente per caso mi sono imbattuto un po' per le segnalazioni di varie riviste in alcuni nomi, due dei quali mi sono sembrati abbastanza interessanti da poter proporre a Salpinaz. E la prima è una ragazza giovane, 25-26 anni, del New Jersey, quindi l'ambiente è quello newyorkese naturalmente, Neta Rahanan. Questa ragazza ha pubblicato un primo lavoro, questa è la sua opera prima, che è anche piuttosto imponente, sono più un'ottantina di minuti di musica, e con un quartetto, direi perlomeno con un partner decisamente molto interessante, è una garanzia, diciamo, di sostegno. Ed è comunque un bel quartetto, e la sua musica è veramente l'esempio di una ricerca, di un omaggio alla storia del jazz, soprattutto penso al cool, penso alla musica di Warren Marsh, di Lee Konitz, il linguaggio tristaniano, diciamo. Però appunto con un suono che risente sia di questo tipo di lingua, insomma, di stile, che peraltro è anche influenzato molto dall'avanguardia dagli anni 90 in poi, insomma, diciamo che il linguaggio del periodo del cool jazz del californiano ha molto influenzato proprio per gli stili vicini alla musica barocca. Ecco, le sue attenzioni, diciamo che il suo periodo formativo è stato l'ascolto di Thelonious Monk, dei classici che l'hanno affascinata particolarmente. Questo quartetto è formato, un aiuto sostanziale, quello di Joel Ross al vibrafono, poi al basso Simon Wilson e alla batteria Kayvon Gordon. Quindi due nomi non particolarmente conosciuti, ma insomma comunque validi. Joe Ross è come sempre una garanzia di intelligenza nel fraseggio musicale. La cosa interessante è anche che sono brani piuttosto lunghi, su tempi medi, viene privilegiato il tempo medio, che quindi dà anche la possibilità di uno sviluppo più approfondito, senza l'ansia di riuscire a impressionare con la velocità. In questo caso è una velocità media, e quindi si ascolta la dipannazione degli assoli, dello sviluppo dei brani, e con in tutta tranquillità. Neta Rahanan al sax tenore e Joel Ross al vibrafono sono protagonisti di questo Unforeseen Bloom. Ascoltiamo. Thank you.

Thank you. era Netta Ranan, giovane sassofonista americana, con la sua opera prima in quartetto, Amphoras in Bloom, con Joe Ross al vibrafono, che la fa da padrone ovviamente, come era logico anche immaginare. Passando ad un altro ambiente, che è quello inglese, l'Inghilterra è anche ricettacolo di molti di immigrazione in generale e anche culturale. E questa giovane, insomma, comunque ha già una quarantina d'anni, è trombettista del Bahrain, quindi dal paese arabo, che arriva con una formazione, peraltro anche è cresciuta in Bahrain, e poi con la famiglia si è trasferita a Londra e ha studiato tromba in famiglia, tutti appassionati di musica, tutti colti, insomma, diciamo che la preparazione musicale è sempre stata legata a una cultura europea. Una delle cose che lei ricorda che ascoltava insieme a sua madre da piccola era la Sagra della Primavera di Stravinsky, quindi chiaramente non è prettamente musica araba, ma ha sviluppato, o ha cercato anche di sviluppare, un linguaggio che riesca a tenere conto sia della propria radice di musica araba, di ambiente araba, di cultura araba, con quello che è naturalmente anche la storia del jazz, che, alla quale lei è decisamente legata. Ha già una certa esperienza di produzioni discografiche, ne è uscita una recentemente, che la vede naturalmente protagonista. I musicisti ospiti sono una miriade, naturalmente non certo conosciuti, perlomeno non in Italia, ma neanche poi tanto rilevanti, perché in sostanza è il clarinetto basso, specialmente il clarinetto basso di George Crowley, e diciamo che gli altri, si può citare anche Ralph Wilde al vibrafono, o marimba, soprattutto marimba, che ha un suono marimba che è meno frequentato e che indubbiamente è molto intrigante come sonorità, e diciamo più antico come suono. Il risultato è apprezzabile. Il disco è intitolato Paradise in the Hold. Ascoltiamo alcuni brani, appunto, composti dalla stessa Yaz Ahmed, non mi ricordo neanche se avevo detto il nome. Comunque, trombettista, Yaz Ahmed, Bahrainita, trapiantata a Londra. Ascoltiamo questi linguaggi che non sono territori inesplorati, questo punto di incontro tra jazz e musica araba. Penso per esempio a Abu Khalil, che lei stessa lo cita come fonte di ispirazione. Che già ormai forse una trentina d'anni fa ha dato vita a diverse produzioni, incontri anche con i musicisti più interessanti dell'epoca, e in questo caso non sono musicisti famosi, comunque l'ambiente è questo punto di incontro tra i ritmi del Bahrain e quelli del jazz. Questo era Yaz Ahmed, trombettista, anche flicorno, brava, con un suono molto bello, molto classico, molto rotondo, con questa ricerca di linguaggio che incontra le proprie origini arabe, anzi baremite, che probabilmente hanno anche degli accenti diversi, specialmente sul piano ritmico, e appunto il linguaggio jazzistico, un disco uscito recentemente, Paradise in the Hold. Era anche l'ultimo ascolto per oggi, vi ricordo che l'intera trasmissione e anche le indicazioni discografiche le potete trovare nel nostro sito Radio Città Fujiko, alla sezione Musical Playlist. Salve a tutti, alla prossima!